E a lui così Eglinton. L'allusione al testamento. Ma ciò fu spiegato, io credo, dai giuristi. Ma le era dovuto il quarto vedovile a termini di legge. Le sue nozioni in merito erano vaste, dicono i nostri giudici. Satana lo dileggia. Irrisore. Perciò ne omise il nome dalla prima stesura, ma non omise invece i doni alla nipote, alle sue figlie, alla sorella, ai vecchi amici a Stratford e a Londra. E perciò, quando fu costretto, come credo, a far di lei menzione, le lasciò il suo letto di seconda scelta. Punto. Lasciolli il suo secondo letto. Lasciolli il suo scelta letto. Seca scelta. Lascio letto. Fermo. I vaghi contadinelli allora avevano poche suppellettili, osservò John Eglinton. Come anche oggi, del resto, se i nostri drammi contadini sono fedeli alla realtà. Era un ricco signorotto di campagna, disse Stephen, con uno stemma nobiliare, terra Stratford e una casa in Ireland Yard, un azionista capitalista, uomo da proporre legge al Parlamento, esattore di decime. Perché non le ha lasciato il suo letto migliore, se voleva che russasse in pace per tutto il resto delle sue notti? È chiaro che c'erano due letti, uno migliore e uno di seconda scelta. Mr. Best di seconda scelta disse sottilmente. Separatio a mensa et a talamo, migliorò Buck Mulligan tra i sorrisi di tutti. Gli antichi ci parlano di letti famosi, disse Eglinton, di seconda scelta, increspandosi in un sorriso lettifero. Fatemi pensare. Gli antichi parlano di quel monellaccio di scolaro stagirita e calvo sapiente pagano, disse Stephen, che alla sua morte in esilio libera i suoi schiavi e fa loro doni, paga un tributo ai suoi vecchi, vuole essere sepolto vicino alle ossa della moglie morta e chiede agli amici di essere gentili con una vecchia amante, non scordate Nell Gwyn Arpilli, e lasciarla vivere nella sua villa. Vuol dire che è morto così? Chiese Mr. Best con lieve preoccupazione. Voglio dire, morì ubriaco fradicio, ribadì Buck Mulligan. Un litro di birra e un piatto da re. Oh, voglio raccontarvi quel che ha detto Dowden. Cosa? Chiese buon Eglinton. Anonima William Shakespeare e compagni, William di tutti noi, per le condizioni rivolgersi a E. Dowden Highfield House. Squisito, sospirò amorosamente Buck Mulligan. Gli chiesi che cosa pensasse dell'accusa di pederastia mossa al bardo. Alzò le braccia e disse: tutto quello che possiamo dire è che si viveva in pieno a quei tempi. Squisito. Ganimede. Il senso della bellezza ci porta fuori strada, disse bella in tristezza Best a Eglinton bruttastro. John Costante rispose severo. Tocca al medico dirci che cosa significano quelle parole. Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Inver così tu dici. Ci strapperanno. Mi strapperanno la palma della bellezza. E il senso della proprietà, disse Stephen. Trasse fuori Shylock dal fondo delle sue tasche. Figlio di un trafficante d'orzo e usuraio, era anche lui trafficante di grano e usuraio, con 10 misure di grano accaparrate durante i torbidi della carestia. I suoi debitori erano senza dubbio quelle degne persone menzionate da Chatel Falstaff, che ci ha tramandato la sua rettitudine nel trattare. Fece causa a un attore suo compagno per il valore di pochi sacchi d'orzo ed esigette la sua libbra di carne d'interesse per ogni soldo prestato. Come avrebbe potuto in altro modo diventar ricco lo stagliere buttafuori di Aubrey? Tutte le circostanze portavano acqua al suo mulino. Shylock echeggia l'antisemitismo che seguì l'impiccagione e lo squartamento del cerusico della regina Lopez, cui strapparono il cuore d'ebreo mentre il giudeo era ancora vivo. Amleto e Macbeth, l'avvento al trono di un filosofastro scozzese con il gusto di arrostire le streghe, l'armada perduta ironizzata in pene d'amor perdute. I suoi caroselli in costume, i drammi storici, viaggiano a gonfie vele su un'ondata di entusiasmo patriottico. I gesuiti del Warwickshire sono processati ed ecco che abbiamo la teoria di un portiere sulla riserva mentale. La Sea Venture torna dalle Bermude e il dramma che Renan ammirava è subito composto con Patrizio Calibano, il nostro cugino americano. I sonetti zuccherosi seguono quelli di Sidney. Quanto alla fata Elisabetta, alias Bess Pelli Carota, la grossolana vergine che ispirò le allegre comari di Windsor, Lasciate pure qualche mein Herr d'Alemagna frugare tutta la vita in cerca di profondi significati arcani in fondo al canestro della biancheria sporca. Mi sembra che te la cavi benissimo. Basta che mescoli una mistura teologico-filologica. Mingo, minxi, mictum, mingere. Dimostri un po' che ero un ebreo, sfidò John Eglinton, aspettandolo al varco. Il suo preside di facoltà ritiene che fosse un cattolico apostolico romano. Sufflaminandus sum. È un prodotto tedesco, rispose Steven, fabbricato per dare una patina francese agli scandali italiani. Un uomo dallo spirito innumere, ricordò Mr. Best. Coleridge lo chiamò così. Amplius, in societate umana, hoc est maxime necessarium, ut sit amicitia inter multos. San Tommaso, cominciò Steven. Ora pro nobis. Frate Mulligan gemette, sprofondando in una sedia. Poi intonò una runa lamentosa. Poge mahon, acushla mecri. Rovinati siamo a partire da oggi. Rovinati siamo di certo. Tutti sorrisero i loro sorrisi. San Tommaso, Steven sorridendo disse, le cui opere panciute mi piace leggere nell'originale. Scrivendo dell'incesto da un punto di vista diverso da quello della nuova scuola viennese di cui parlava Mr. McGee, lo paragona in quel suo modo saggio e curioso a una varizia delle emozioni. Egli vuol dire che l'amore dato in questo modo a una persona dello stesso sangue è cupidamente sottratto a qualche estraneo che forse ne è bramoso. Gli ebrei, che i cristiani tacciano d'avarizia, sono tra tutte le razze quelli che più indulgono a matrimoni tra consanguinei. Le accuse vengono dall'ira. Le leggi cristiane che contribuirono ad ammassare i tesori degli ebrei, per i quali, come per i lollardi, la tempesta fu rifugio, legarono anche i loro affetti con cerchio d'acciaio. Se siano peccati o virtù, il vecchio Nemo Babbo ce lo dirà alla seduta del giorno del giudizio. Ma un uomo che tiene così stretti quelli che chiama i suoi diritti su ciò che egli chiama i suoi debiti, terrà stretti anche quelli che chiama i suoi diritti su colei che egli chiama sua moglie. Nessun messer sorriso del vicinato dovrà desiderare il suo bene o sua moglie o il suo servo o la sua serva o il suo asino. O la sua asina, antifonò Buck Mulligan. Il gentile Will è maltrattato, disse gentilmente il gentile Mr. Best. Quale Will? Interpolò dolcemente Buck Mulligan. Stiamo facendo confusione. La volontà di vivere, filosofò John Eglinton, per la povera Anne, vedova di Will, è volontà di morire. Requiescat, salmodiò Stephen. E la voglia di fare? Che ne è stato? È già da molto che se n'è partita. Giace composta in rigida immobilità su quel letto di seconda scelta, la regina imbacuccata. E voi avete un bel provare che un letto in quei giorni era raro come un'automobile ora, e che i suoi intagli erano la meraviglia di 7 parrocchie. Nella vecchiaia si dà ai predicatori. Uno rimase a New Place e beve 1 litro di vino di Xeres a spese della città, ma in che letto abbia dormito non giova a chiederlo. E sentì dire di avere un'anima. Lesse o si fece leggere i suoi libercoli, preferendoli alle allegre comari, e, liberando le sue acque notturne nell'orinale, meditò su ganci e occhielli per le brache dei credenti e la spiritualissima tabacchiera da far starnutire anime devotissime. Venere aveva torto le labbra in preghiera. Hagenbeit of Inuit, rimorso di coscienza. È un'era di esausto puttanesimo che brancola verso il suo Dio. La storia dimostra che non è vero. Inquit eglintonus chronologos. Le ere si succedono le une alle altre. Ma sappiamo da autorevolissima fonte che i peggiori nemici di un uomo sono i suoi familiari stessi. Io sento che Russell ha ragione. Che ci importa di sua moglie e di suo padre? Direi quasi che solo i poeti da famiglia hanno vita di famiglia. Falstaff non era un uomo di famiglia. Direi che il grasso cavaliere sia la sua creazione suprema. Magro si tirò indietro. Timorato, rinnega i tuoi parenti, gli ottimi. Timorato a cena con i senza Dio, egli sottrae la coppa. Un padre in Antrim nell'Alster glielo ingiunse. Gli fa visita qui nei giorni di scadenza. Mister McGee, c'è un signore che vuol vedervi. Me? Dice che vostro padre, signore. Datemi il mio Wordsworth. Entra McGee Mor Matthew, un rustico, ruvido, zotico, scarruffato, in calzoni con brachetta abbottonata, il fondo delle calze sporco del fango di 10 foreste, una verga di nocciole in mano. Il tuo, egli conosce il tuo vecchio, il vedovo. Accorrendo dalla gaia a Parigi alla miserevole cuccia di morte di lei, sul molo toccai la sua mano. La voce, rinnovato calore, parlava. La cura il dottor Bob Kenny. Gli occhi che mi vogliono bene, ma non mi conoscono. Un padre, disse Steven, lottando contro lo scoramento, è un male necessario. Egli scrisse il dramma nei mesi che seguirono alla morte di suo padre. Se voi sostenete che egli, uomo che si avvia a divenire grigio, con 2 figlie da marito, con 35 anni di vita, nel mezzo del cammin di nostra vita, con 50 di esperienza, è l'imberbe studentello di Wittenberg, allora dovete sostenere anche che sua madre, 70enne, è la regina lussuriosa. No. Il cadavere di John Shakespeare non va a passeggio di notte. D'ora in ora si corrompe sempre più. Riposa, divestito di paternità, avendo trasmesso quello stato mistico al figlio. Il calandrino di Boccaccio è stato il primo e l'ultimo uomo a sentirsi gravido. La paternità in quanto generazione cosciente è sconosciuta all'uomo. È uno stato mistico, una successione apostolica. Dall'unico generatore all'unico generato. Su quel mistero e non sulla Madonna che lo scaltro intelletto italiano ha gettato in pasto alle genti d'Europa è fondata la Chiesa, e fondata irremovibilmente in quanto è fondata come il mondo, macro e microcosmo, sul vuoto, sull'incertezza, sull'improbabilità. Amor matris. Genitivo, soggettivo e oggettivo. Questa è forse l'unica cosa vera nella vita. La paternità forse è una finzione legale. Chi è il padre di un qualsiasi figlio? Perché qualsiasi figlio debba amarlo? O viceversa? Ma dove diavolo vuoi arrivare? Lo so, chetati, va all'inferno. Ho le mie ragioni. Amplius, aduc, iterum, postea. Sei condannato a far questo? Sono separati da una vergogna carnale così costante che gli annali criminali del mondo, macchiati di ogni altro incesto e bestialità, quasi non registrano tale infrazione. Figli con le madri, padri con le figlie, sorelle lesbiche, amori che non osano dire il proprio nome, nipoti con nonne, galeotti con buchi di serrature, regine con tori di razza premiata. Il figlio nascituro guasta la bellezza, nato porta dolore, separa l'affetto, accresce le preoccupazioni. È un nuovo maschio, la sua crescita è il declinare del padre, la sua giovinezza l'invidia del padre, il suo amico, il nemico del padre. In Rue Monsieur le Prince ho pensato questo. Che cosa mai li congiunge in natura? Un istante di cieca foia. Sono padre. Se lo fossi, mano esitante raggrinzita. Sabellio, l'africano, l'eresiarca più sottile tra tutte le bestie del campo, sosteneva che il padre era figlio di se stesso. Il mastino di Aquino, per il quale non vi è parola impossibile, lo confuta. Bene, se il padre che non ha un figlio non è padre, può il figlio che non ha un padre essere un figlio? Quando Rutland Bacon, Southampton Shakespeare o un altro poeta dello stesso nome nella commedia degli equivoci scrisse all'Amleto, egli non era semplicemente il padre del proprio figlio, ma non essendo più figlio, era e si sentiva padre di tutta la sua razza, padre del proprio nonno, padre del nipotino nascituro che alla stessa stregua non nacque mai, poiché la natura, come ben lo intende Mr. McGee, aborre la perfezione. Occhi d'Eglinton, vivi di piacere, si levarono timido raggianti, lieto occhieggiante, gaio puritano, attraverso la tortuosa eglantina. Adulare, di rado, ma adulare. Padre di se stesso, Mulligan figlio disse tra sé. Aspetta, sono incinto. Ho un nascituro nel cervello, palla di Atena, un dramma. Il dramma è quello che ci vuole. Fatemi partorire. Si strinse la testa a ventre con entrambe le mani a forcipe. Quanto alla sua famiglia, disse Stephen, il nome di sua madre vive nella foresta di Arden. La morte di lei gli ispirò la scena con Volumnia, nel Coriolano. La morte del suo bambino è la scena della morte del giovane Arturo nel Re Giovanni. Amleto, il principe nero, è Hamnet Shakespeare. Chi siano le fanciulle della tempesta, di Pericle, del racconto d'inverno, lo sappiamo. Chi sia Cleopatra, pignatta d'Egitto e Cressida e Venere, possiamo indovinarlo. Ma c'è un altro membro della sua famiglia di cui è fatta menzione. L'intreccio si complica, disse John Eglinton. Il tremolante bibliotecario, quacchero tremolando, entrò in punta di piedi. Tremula la sua maschera, tremula, in fretta tremula, tre. Porta chiusa, cella, giorno, ascoltano, tre, loro, io, voi, egli, loro. Andiamo, Sig.